America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, una settimana di fuoco, quella che si apre questa mattina su tre fronti: politico, economico e di politica estera. Sul piano politico, Barack Obama lancia una sfida ai repubblicani, propone un aumento delle aliquote per i redditi superiori al milione di dollari. Su quello economico, la Federal Reserve, cominceranno le riunioni del Federal Open Market Committee, annuncerà quasi certamente tra martedì e mercoledì un programma di stimolo monetario. Infine, Assemblea Generale dell'ONU. I leader di mezzo mondo saranno in città. New York è già semi paralizzata. Si discuterà un po' di tutto, ma soprattutto si discuterà di Palestina. Dovrebbe diventare uno Stato, ci sarà un voto. Sarà uno degli argomenti più delicati, difficili, controversi di questa Assemblea Generale delle Nazioni Unite 2011. On Monday I'll lay out my plan for how we'll do that. I will pay for this plan and pay down our debt by following some basic principles, making sure we live within our means and asking everyone to pay their fair share. Il presidente Obama, lo avete ascoltato, mentre spiegava come intende risolvere il problema del disavanzo pubblico americano, ebbene oggi, fra poche ore, darà un altro annuncio. Più o meno sappiamo di cosa si tratta. Vuole chiedere che l'aliquota per coloro che hanno un reddito superiore al milione di dollari sia elevata. Molta polemica su questa decisione del presidente Obama. I repubblicani resisteranno sicuramente perché sono contrari ad aumenti fiscali di qualunque genere, però Obama è stato molto abile in questo modo, stringere i repubblicani un po' in un angolo, chiedere un aumento delle aliquote per i redditi di 250 mila dollari, che già finiscono per pagarne circa 100-120 mila, comunque già subito adesso in tasse, quindi un reddito che si riduce di molto, poteva sembrare eccessivo, ma davanti al milione di dollari sono 450 mila gli americani che hanno nelle loro dichiarazioni fiscali un reddito superiore al milione di dollari, quindi su una popolazione di 300 milioni di abitanti, beh, ecco, devo dire, l'opinione pubblica non si scandalizzerà. Parla il leader palestinese, Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Vi dicevo, una settimana molto intensa, ma intanto è chiaro che attorno a questa Assemblea Generale delle Nazioni Unite vi sarà un oggetto del contendere molto delicato, e cioè l'approvazione da parte dell'Assemblea Generale della Palestina come Stato. È una questione molto molto delicata, perché il negoziato fra israeliani e palestinesi, appoggiato sempre su una premessa, e cioè che ci si sarebbe messi d'accordo su tutto, inclusa la condizione di Stato per la Palestina, una volta che fossero risolti tutti i problemi. La questione palestinese torna ad essere dunque la questione più calda di questa settimana. Vi terrò informati su sviluppi, prospettive e conseguenze. E visto che avremo una settimana molto impegnativa nei prossimi giorni, oggi, che forse ancora possiamo permettercelo e abbiamo il tempo, vorrei occuparmi di qualcosa di molto diverso. Ho con me ai microfoni di America 24, reduce dal successo del concerto dell'altro giorno a Central Park, Andrea Bocelli. Buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Intanto, cos'è stato cantare a Central Park, sentire questa folla di americani dove hanno cantato tutti i grandi della storia della musica? Ma Central Park è il cuore di una città che a me ha dato moltissimo fin dagli esordi, e Central Park è un concerto che abbiamo pensato proprio per la città, per restituire a questa città che a me ha dato moltissimo qualcosa. Ecco, quindi ci siamo impegnati, perché il progetto era estremamente complicato, perché qui a New York tutto è complicato, nel senso che ci sono le istituzioni che non dialogano facilmente tra di loro. È stata una cosa molto complessa, alla fine l'abbiamo realizzata con grande piacere. Ecco, e quindi l'emozione di sentire questo pubblico, una giornata poi drammatica, piovosa, con non si capiva se venivano le nuvole o meno, quindi questo ha aggiunto, se vuoi, all'atmosfera, secondo me. Ha aggiunto pathos al pathos, ma io ero ottimista, perché ottimista sono nato e ottimista morirò. Ero sicuro che questa cosa si sarebbe fatta, e il pubblico è stato veramente protagonista, come sempre accade qui in America. e io riporterò in Italia un ricordo veramente indimenticabile. Ecco, hai accennato a Pavarotti, un altro italiano che ha cantato a Central Park. Lui ha fatto da apripista, quello che lui ha fatto è qualcosa di irripetibile e memorabile. Ecco, l'America e i giovani. Noi abbiamo da qualche tempo qui su Radio 24, ma anche sul nostro sito America 24, lanciato questa campagna One Way, cioè per rispondere a molti giovani che ci hanno avvicinato perché vogliono venire in America. Giovani e non giovani, abbiamo anche la storia di un camionista, pensa, che vuole venire a fare il camionista in America. Primo, qual è la tua esperienza con l'America? Quando sei venuto la prima volta in America? Ma io non mi stupisco di questo, perché ho mio figlio, il primogenito, che ha passato un mese e mezzo qui a Los Angeles, alla UCLA, e vorrebbe tornare, perché l'America è un paese libero, è un paese dove i sogni diventano realtà, dove tutto è possibile. Perciò io penso che non ci siano consigli particolari da dare, perché alla fine le grandi città in America sono un po', sono metropoli dove ognuno però si sente a casa. Sente a casa perché dietro ogni angolo può trovare qualcuno che parla la sua lingua, col suo stesso accento anche magari, e quindi si può venire qui a cuor leggero. Quando è la prima volta che sei venuto in America? Che ricordo hai di quella prima volta? Non ricordo benissimo, perché non sono fortissimo nelle date, ma sono passati tanti anni e mi ricordo di aver trovato un pubblico affettuoso e calorosissimo fin dalla prima volta. Hai imparato qualche cosa dall'America dal punto di vista professionale, oppure non ci devono insegnare niente dal punto di vista musicale, canora? Si impara sempre ovunque, non soltanto in America. Poi l'America dal punto di vista musicale ha scritto pagine molto importanti, fortunatamente l'ha fatto con grandissimi artisti che vanno da Frank Sinatra, Tony Bennett, che ieri sera era sul palco con me, con insomma, tutte le stelle di Hollywood che tutti conosciamo. Se devi pensare a una canzone americana fra le tue favorite, una magari con cui sei cresciuto, che ti ha dato qualche cosa, no, cosa ti viene in mente? Credo che ci sia una canzone simbolo che io dico, cioè eleggo come la miglior canzone al mondo, che è My Way. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter, 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, avendo avuto Andrea Bocelli come ospite, non possiamo che esaudire il suo desiderio e dunque My Way, nell'interpretazione magistrale, unica di Frank Sinatra. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.